24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno, sono le 6:32 minuti. Eccoci, riparte una settimana di 24 mattino. Siamo in diretta fino alle 9. Che dire? Niente, è lunedì e quindi riparte una settimana. Vedo Miriam Lucchetti in redazione, già che scalpita dalle 6, corre di qua e di là. C'è il nostro alpino Peter Bescapè, lui sarà sveglio dalle 4:30 più o meno. Ah, ci ho azzeccato, dalle 4:30, sorride. C'è anche Carmelo Lauricella, qui è venuto a fare un giro, anche lui come tecnico. C'è pubblico, è pubblico! E c'è il nostro consiglio, come sempre, il consiglio del Presidente del Consiglio. But please relax. Rilassatevi, juventini, soprattutto rilassatevi, andate tranquilli a lavorare. Che apre il nostro bar con la nostra bella Nicole a offrire il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè a tutti quanti offre Nicole Minetti, offre anche ai 4 milioni di italiani più o meno che sono stati in fila per le primarie del centro-sinistra. Saluto intanto Alberto Forchielli, buongiorno. Dove lo ritroviamo? Pechino! Lì hanno votato per le primarie? No, perché si poteva votare anche all'estero, eh? C'erano i gazebo, ha visto a Piazza Tiananmen dei gazebo? No, non li ho visti, no. Non mi ha scritto nessuno, non ho ricevuto. Ma come no? Comunicazione dal consolato. Si poteva votare all'estero, Forchielli, ha vinto al Cairo, per esempio, al Cairo, ha vinto Vendola. 13 voti per Vendola e 11 per Renzi. Vendola ha vinto le primarie, si può dire, al Cairo. Ha fatto la primavera araba lui, Vendola. Allora, Forchielli, però un attimo, perché la notizia del giorno, si sa, è un'altra. Abbiamo visto che, di calcio Forchielli non se ne frega niente, ma insomma ieri è successo quasi un miracolo. Il Bologna ha perso, però. Lo so, non è vero, se ne frega niente. Ah, vabbè, però ha perso il Bologna, mi risulta. Invece il Milan ha vinto, è stata una vittoria incontestabile, incontestata, con un rigore netto, perché vedete, Muntari aveva la mano tesa, no? L'avete visto, Muntari che ha fatto il rigore con la mano tesa. Allora, noi abbiamo il presidente Silvio Berlusconi, lo ringrazio perché è molto presto questo. Presidente Berlusconi, buongiorno. Buongiorno a te, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, da del tuo, vabbè, insomma, tra milanisti. Presidente, allora, rigore com'era? Dubbio c'era? Alessandro, non fanno spiritoso, ci diamo del tu da tempo e credo lo sanno tutti, insomma, ormai. Guarda, invece per quanto riguarda ieri, voglio dire che in seguito, probabilmente anche all'esito delle primarie, sto rivedendo alcune mie posizioni, ho sempre criticato Monti per il rigore eccessivo con cui ha approcciato la crisi. Devo dire che da ieri sono decisamente un fan degli eccessivi rigori. Credo che facciano del bene a questo paese, e in particolare il rigore eccessivo potrebbe essere la svolta che dà al paese lo slancio per ripartire. Vabbè, però non c'era molto quel rigore, bisogna dire non c'era molto, forse, ma va bene così, no? Ma certo, come ti ho detto, il rigore eccessivo è il punto di partenza dello rilancio, quindi bisogna rivedere certe dichiarazioni. Sono stato mal interpretato e frainteso quando ho messo in discussione la bontà della scelta del rigore eccessivo, perché il rigore eccessivo è assolutamente il punto di svolta e di partenza da cui il paese può rilanciarsi. La dimostrazione l'abbiamo vista ieri. Va bene. Presidente, io la ringrazio. Giovedì è vero che nasce un nuovo partito, pare, Forza Italia, è vero, fa le primarie, Alfano, sta con Alfano, fuori Alfano, che succede? Ma guarda, ho visto che Alfano insiste con questa storia delle primarie anche nel centrodestra, come se fossimo un centro-sinistra qualunque. Trovo che sia una cosa indegna mischiarsi a scelte come quelle, per cui con ogni probabilità avrò ancora una volta l'onere di dovermi far carico per il bene di questo paese, per non, perché non venga consegnato nelle mani delle sinistre. Eccolo lì, si ricandida, questa è la notizia alle 6:37 minuti, si ricandida Silvio Berlusconi, la ringrazio Presidente, ovviamente rigore eccessivo, poteva stare pochi minuti, grazie Forchielli, si ricandida, questa è la vera novità, si ricandida Berlusconi. Non è credibile, non ci crede neanche lui. E adesso che ha messo giù, non è credibile, non ho capito. Bisognerebbe più parlarne in trasmissione. Secondo me, ossia, lei deve decidere se vuole parlare di cose serie o far ridere la gente. No, ma come? Ma sì. No, adesso, Forchielli, Silvio Berlusconi, ma era presidente del Consiglio fino a poco fa. Silvio Berlusconi è il re del gossip mondiale ormai, capito? Cioè, non entra più neanche nei giornali seri nel mondo. Entra nella pagina del gossip, prende più audience di Madonna, però lì detto, dovrebbe stare Madonna, sì, ma non nei giornali seri, è scomparso. Va bene. Solo nel retropensiero dei tedeschi che per i quali è una specie di secondo Hitler, ma per il resto non esiste addirittura. E io credo che basta un secondo Hitler Berlusconi, Forchielli, ma siamo matti? Ma sì, lo vedo. Ma no, è anche un complimento, lo vedono comunque. Ah no, dai, adesso un secondo Hitler Berlusconi, Forchielli, non esageriamo. Ma lo vedono come un essere pregevole, ossia, vabbè, ma cosa c'entra? Ma un secondo, ma dai, no, finché si ride si scherza, però secondo Hitler e Berlusconi questa non la posso accettare, insomma, Hitler ha fatto cose che, per carità, non vogliamo neanche Miller non deve mica accettare lei, capito? No, capito, ma Hitler è il paradosso che uso io, capito? È un bel paradosso. Hitler come un essere spregevole, come un personaggio di nessuna moralità, e credo che ormai la stampa seria in Italia non se ne debba più occupare. Non se ne debba più occupare. Vabbè, ma noi l'abbiamo salutato. Allora invece voglio salutare Bimbo Alieno. Eccoci qua, Bimbo Alieno, buongiorno, che è il lunedì. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Eccoci, no, ma ci siamo. Avevamo il presidente Berlusconi qualche minuto prima. Forchielli dice il secondo Hitler, adesso non dovremmo più. Ha detto anche che è un complimento, tra l'altro. Sì. No, Forchielli, sapeva, ogni tanto mi fa dei sudori freddi, no? Però Forchielli, se dice che siamo feccia noi italiani, va bene, ce l'ha con la Camusso, va bene. Oggi poi le dico una cosa sulla Camusso, secondo Hitler e Berlusconi, questa veramente, no? Alle 6:40 del mattino mi sto slacciando la camicia e fa freddo qua a Milano, perché sto cominciando a sudare. Comunque, insomma, ieri c'è stata le primarie, oggi noi ne parleremo anche alle 8:30, le primarie, tanti milioni di persone in fila, questo almeno Forchielli è piaciuto, va bene, è un buon segnale per la democrazia, tanti milioni di persone che vanno in fila, Bersani è in testa ma non ha vinto il primo turno. Beh, è l'unico partito che ha l'encefalogramma funzionante, non è encefalogramma piatto, capito? Ossia, è un minimo di vitalità politica, perché 4 milioni di persone mi hanno sorpreso. Effettivamente, questo non sì. vuol dire che sia il partito giusto, ma comunque c'è ancora chi spera, ecco. Sì, che poi è partito, c'è anche il centro-sinistra, c'è CSL, di Vendola, ecco, Bimbo Alieno, 4 milioni di persone, insomma, come legge dal punto di vista finanziario? Nulla, non c'è nessuna lettura, però da cittadino italiano che ne pensi di quello che è successo ieri? Una prova di democrazia, una prova di vitalità, per Grillo erano tutti zombie, tanto si sa chi andrà al governo l'anno prossimo. E allora, intanto hai fatto bene a citare Grillo, perché in realtà il vero sconfitto mi sembra che sia lui, di ieri, vista la partecipazione, direi che la questione dell'antipolitica ieri ha preso una buona sferzata. E poi gli altri che hanno perso siete voi due, che dicevate che Bersani avrebbe vinto il primo turno, mi avete sbeffeggiato per aver detto che... Io ho detto che vince Bersani, lo confermo secondo me. Al primo turno. Avevo detto così, sai che non me lo ricordo, no ma non me lo ricordo veramente, se l'ho detto ho sbagliato. Sì, Forchielli diceva, invece, ma figurarsi, votano a Imola, Ferrara, esatto. Modena, tutti. Li mandano tutti a votare. Invece, dal punto di vista economico finanziario, diciamo, se è corretta la lettura di una indebolimento del fronte dell'antipolitica, del rifiuto di tutto, insomma, potrebbe anche avere una lettura blandamente positiva. Positiva. Tanto ha già deciso Beppe Grillo, come hanno deciso in molti. Sentite, ieri il presidente del Consiglio Mario Monti era da Fabio Fazio. È un minuto, a quest'ora alle 6.43 del mattino, con questo ritmo, sentir parlare Monti, ammetto che è un po' un mezzo colpo che vi do, perché magari vi siete svegliati, siete belli adrenalinici e ora pam, arriva Mario Monti, però sentite cosa dice del suo futuro. Io rifletterò su tutte le possibilità, nessuna esclusa, in cui eventualmente io ritenga di poter dare il mio contributo al migliore interesse dell'Italia, dell'Italia europea, io la vedo solo così, di un'Italia che riesca ad affermarsi, a competere, a creare lavoro, ad avere maggiore giustizia sociale, in che modo io possa eventualmente contribuire, non lo so, rifletterò. Sarà una decisione mia se vorrò cercare di dare o accettare di dare un contributo. E come sempre terrò nella massima considerazione nel prendere questa mia decisione l'orientamento, le valutazioni, i consigli del presidente Napolitano, al quale credo tutti noi dobbiamo moltissimo, al quale io devo in particolare il grande privilegio, grazie alla sua fiducia, di aver potuto servire l'Italia in un momento particolarmente difficile. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, Forchielli, questo ha detto: deciderò io come rendermi utile, insomma è tutto deciso, no? Si sa, qua ci arrabattiamo 4 milioni in fila, invece c'è Mario Monti che deciderà lui che succederà. Ma no, deciderà lui. Bimbolino dice di no, invece è un po' così. Sei un po' montato la testa, Una settimana fa ci diceva che era lui, che era Mario Monti l'unico che può continuare se stesso. Sì, decido io, devo dire se ho un po' montato la testa con questo palleggio tra lui e Napolitano, da quel accademico asciutto professionale sta diventando un po' una prima donna. Addirittura. No, perché ha detto Bimbolieno. Sta perdendo in parte la mia simpatia. Porca miseria, pure questo Bimbolieno, basta, Forchielli non salva nessuno. Manco Mario Monti adesso, no? ha detto non escludo nulla, ascolterò Napolitano, che ringrazio, ma deciderò io poi, la scelta è mia. Questo ha detto. Vabbè, ma parlava del suo futuro, non è che io sceglierò chi sarà il presidente. Ma no. La domanda di Fazio qual era? Perché non lo lui so. Ha risposto. Se mettevamo anche la domanda, sai com'è? Arrivavamo alla fine della trasmissione. Potrebbe aver dato la disponibilità a fare il ministro, con quella frase vale tutto. Ma no, si parlava del suo futuro, penso. Tutti la danno così anche sui giornali, il futuro in politica, nel senso possibilità di un Monti bis. Credo che fosse quella la domanda. Sì, Alessandro Milan, attenti a difendere la Fornero. Si diventa Cordei nella costrizione al suicidio causato da decisioni dittatorie. È 27 anni che lavoro, sto facendo il camionista. A me la pensione forse non me la danno, i contributi l'ho pagato, i due vitalizi se ne devono andare a prendermi un'altra parte, no che perché fa 10 anni di politica o 3 anni di politica devono avere questi vitalizi. Basta! Sono un cascato nero. Ora magari questa non la passare. caro Milan, a quel senatore nessuno gli vuole portare via niente, anzi se fossimo una nazione florida gliene daremmo anche 5 di vitalizi. Il fatto è che si toglie il pane ai pensionati e si lasciano 2 vitalizi a quelli lì, altro che forconi. Ciao Alessandro, sono Gianluca da Lugano. Niente, volevo dire che secondo me la Fornero non ha ben capito il ruolo che sta ricoprendo. Non può esimersi dal non rispondere a delle domande, cioè è allucinante questa cosa. Ho appena sentito la telefonata dell'onorevole Vito. Questo qui non ha mica capito quella che è l'aria che tira in questo paese. Sono giusti 2 vitalizi, si fa la risata? Ce la faremo noi la risata quando tra un po' non avrà il coraggio di scendere in strada. Occhio gente, occhio. Ciao, sono straniero e faccio un appello alla Lega Nord. Se volete cacciare via gli stranieri, fate qualcosa che possiate avere la cittadinanza in breve tempo, vedrete che non rimane nessuno in Italia con la fame che c'è qua. Ecco, con l'appello alla Lega Nord di un nostro ascoltatore straniero, la nostra segreteria, siamo con Alberto Forchielli, che è il presidente dell'Osservatorio Asia da Pechino, è il nostro bimbo alieno, è il nostro analista, blogger finanziario. Attenzione perché si ributta in politica anche Emilio Fede. Ecco, Forchielli vuole dare un parere di quelli suoi tranchant su Emilio Fede? No, Forchielli. È un imbazzurlito. Un licaone che cammina, se non c'era nessuno nella sala, ho visto le foto. Infatti, non è una notizia politica. È anche una notizia. Emilio Fede si presenta a presentare il suo movimento Vogliamo Vivere, c'erano 40 persone, il teatro deserto, sentite Emilio Fede. Voglio l'inno subito, di Vogliamo Vivere. Sentite che musica. Ci sono 2 modi per andare in prima pagina, a parte Santoro e compagnia Briscola, Regeno Strisci. O perché c'è una grande folla e l'indomani sei in prima pagina, strano, una grande folla per Emilio Fede, oppure ci sei perché è flop per Emilio Fede, c'è poca gente. Però io ringrazio, fossero anche 3 persone, ringrazio i colleghi. Ah, fossero anche 3 persone, sentito bimbo alieno, ringrazio. È stato però onesto, dice, si può andare in prima pagina per un successone o per un flop. È stato un flop. Io voglio l'inno però, dobbiamo scaricarlo, Vogliamo Vivere, perché deve diventare la nostra sigla in qualche modo. Comunque è riuscito a fare più pubblico di Alex L'Ariete, il film di Alberto Tomba al cinema. C'è un film di Alberto Tomba. Anni fa la registrerei come una cosa. Sei andato a vederlo, di la verità. No, ricordo sei bene andato che... a vedere, sei andato a vederlo il film di Alberto Tomba. Il film di Alberto Tomba. Vabbè. E quindi che dobbiamo dire? Che vuoi dire? Che insomma, lui dice di avere il 3% secondo i sondaggi. Quindi vabbè, sì. Va bene. Insomma, siamo più o meno ai livelli di Flea, secondo lui. No, va bene. Fa l'ironico anche sul presidente della Camera Fini. Ma ragazzi, ma io qua dalle 6:30 alle 7 c'è Forchielli che mi dice che Berlusconi è come Hitler, bimbo alieno che prende in giro le percentuali di Fli è Futura Libertà, quello del presidente della Camera Fini. Che devo fare? Mi cacceranno a calci. Forchielli, visto che dobbiamo fare il pronostico anche per il a questo punto per il ballottaggio il 2 dicembre. Ma sai che Renzi ha detto ho vinto nelle regioni rosse e non è mica detto che perda poi al ballottaggio, eh? Potrebbe recuperare questi 7-8 no, punti? No, perché potrebbe aumentare molto l'affluenza. Come diceva Bimbo Alieno, l'antipolitica ha più energia della vecchia politica, per cui questo potrebbe animare molte persone a andare a votare che prima non sono andate, per cui non lo do più perdente Renzi. Non lo dà più perdente, come invece lo ha dato una sua grande amica Susanna Camusso, che è caduto? Forchielli? No. Come invece è peccato, volevo chiedergli in chiusura una battuta su Susanna Camusso, leader della CGIL, grande amica di Forchielli, che sulla CGIL ha sempre parole molto tenere, che ha detto se vince Renzi se vince Renzi è un problema. Questo l'ha detto a urne aperte, tra l'altro, a me che sono primarie, non è che sono. A che problema si riferiva? I problemi di rapporti mercato del lavoro, no, Bimbolieno, questo era. Ma guarda, a me è venuto in mente un parallelo con come se fosse il Papa di sinistra, l'ingerenza così a urne aperte, davvero. Secondo me è davvero di cattivo gusto. Davvero di cattivo gusto. Sentiamolo, visto che Forchieri l'abbiamo recuperato. Susanna, sì. Camusso, appena ho nominato Susanna Camusso, è caduta la linea. Non so se con la Cina, sì, o, con sì, Forchieri, sì. O con Forchieri, ha, sì, messo giù. Ha detto che sostiene Bersani. Eh sì, no, Forchieri ha sentito Camusso, tu, ha messo giù. La, sì, sua, esatto. La sua grande. Sì, sì, no, ma, no, ma sono i cinesi che bloccano tutto. Sono i cinesi. È una delle parole proibite, sì. Sì. Cioè, se dice Camusso, salta tutto. Camusso, tra. Cade la linea, sono, blindano qua. Google, Camusso, trick, cade, esatto, tutto. Esatto, Camusso, sì, Camusso conta più di Google. Eh sì, allora Camusso ha detto ho votato Bersani e se vince Renzi è un problema. Ecco, Forchielli. Il problema è per la Camusso a questo punto. Beh, quindi sì, per lei problema ovviamente. Per sì. La Camusso è un'opportunità per l'Italia. Ecco, questa è la chiosa di Forchielli. Semplificare, quindi dice meglio Renzi, così è un problema per la Camusso ed è un'opportunità per tutti gli altri. Cioè, voglio dire, la Camusso parla come se il mondo non esistesse, la Camusso parla come se la globalizzazione non fosse mai avvenuta, come se la Cina non fosse la seconda economia del mondo, come se gli Stati Uniti non fossero il primo paese esportatore di energia al mondo. Qui è cambiato tutto, capito? Poi tanto. E ancora siamo alla difesa di quelle poche robe, capito? Che ci costa più difendere e costruire nuovo. Poi basta nominarla e cade la linea con la Cina. Si blunda tutto. Va bene, io mi devo fermare qui prima che ci regalano un'altra perla sulla Camusso dopo Hitler, Berlusconi e poi dopo altro che sudori freddi. Grazie Alberto Forchielli, grazie Bimbolieno. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Lunedì 26 novembre, cominciamo dai titoli. La Gazzetta dello Sport. No, questa la teniamo ovviamente per il finale, però poteva essere un modo oggi per iniziare con la lettura della Gazzetta dello Sport approfondita. Allora, il Sole 24 Ore, Bolzano prima nell'anno della crisi, di cosa si tratta? È la classifica annuale sulla qualità della vita 2012 sul benessere nelle province e vedremo chi è in testa oltre a Bolzano tra poco. E poi le primarie del centrosinistra. Corriere della Sera, Renzi porta Bersani al ballottaggio, quasi 4 milioni di voti. Bersani si attesta al 44%, Renzi al 36%, più o meno, ma lo spoglio non è ancora finito. Primarie record, ballottaggio Bersani-Renzi, questo è il titolo di Repubblica. Per l'Unità, Bersani in testa, sarà sfida con Renzi. Per il Messaggero, Bersani e Renzi al ballottaggio. La Stampa, ballottaggio Bersani-Renzi. Oggi è in edicola anche il Manifesto, in edizione straordinaria, anche se poche pagine per le primarie. Voto a 5 stelle, questo è il titolo del Manifesto. Per il Secolo XIX Bersani si ferma al 44%, ballottaggio con Renzi. Il Giornale, Bersani è primo ma Renzi ha vinto. E Pubblico invece mette le foto di Bersani e Renzi. Stanotte non ha dormito bene e c'è Bersani in primo piano. Questo secondo Pubblico, dunque la lettura è Bersani ora davvero rischia. Iniziamo appunto dal Sole 24 Ore, la qualità della vita 2012, la classifica con la vittoria di Bolzano sul podio della qualità della vita, accompagnata da Siena, è la seconda provincia, ecco il secondo posto, e la collega di regione di Bolzano, Trento, al terzo posto, al quarto posto Rimini, quindi Trieste, Parma, Belluno, Ravenna, Aosta, Bologna. Queste le prime 10 province, mentre le ultime 10 sono a partire dal 98esimo posto a scendere fino al posto numero 107, sono Caserta, Palermo, Bari, Foggia, Vibo Valentia, Trapani, Brindisi, Caltanissetta, Napoli e Taranto, dunque tutte province del sud. Il podio delle graduatorie di settore per il tenore della vita, al primo posto è Milano davanti a Trieste e Belluno. Per gli affari e il lavoro, prima Cuneo davanti a Reggio Emilia e Bolzano. Per i servizi ambiente e salute, al primo posto appare in merito Bologna e Lucca davanti a Ravenna. Per popolazione, prima Piacenza, seconda Siena, terzo Trento. Per l'ordine pubblico, prima Oristano davanti a Belluno e Crotone. E per il tempo libero, prima Rimini davanti a Siena e Bolzano. Comunque, in allegato c'è tutto lo speciale sulla qualità della vita, tutte le classifiche, tutto quello che c'è da analizzare. Ovviamente Bolzano vince la classifica generale, tutti i parametri. Io vi ho dato la classifica generale, alcuni degli aspetti più importanti, il tenore di vita, il tempo libero, appunto, i servizi, ambiente, salute, affari, lavoro, ma comunque trovate tutti i dettagli di quella che è la classifica annuale sul Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, anche con tutte le classifiche, classifica per classifica. Spesso mi si dice qua, ma insomma le belle notizie non ci sono mai, ma non è che io lo dico come un mantra, non per discolparmi, io leggo i giornali e sui giornali evidentemente ci sono soprattutto brutte notizie. C'è una bella notizia invece, la trovate a pagina 25 della Stampa, è una notizia che proviene dall'economia e dalla finanza e che riguarda una piccola multinazionale del Kashmir, quella di Brunello Cucinelli, che poco tempo fa è stata anche quotata in borsa. Il regalo di Natale di Cucinelli ai dipendenti, 5 milioni di utili, ovviamente da suddividere. Di cosa si tratta? Scrive Luigi Grassia, appunto, sulla Stampa, la prima pagina dell'economia, la trovate a pagina 25. Questo sì che è un regalo di Natale. Il re del Kashmir, Brunello Cucinelli, appena sbarcato in borsa, ha deciso di condividere gli utili con i 783 dipendenti. Ha preparato un dono da 5 milioni di euro da mettere sotto l'albero. Facendo la semplice media aritmetica, risultano più di 6.000 euro a testa. La notizia, con tanto di numeri, anticipata dal giornale online Umbria24.it, anche se il titolare della società non ha confermato le cifre, ha solo detto è un piccolo dono che la famiglia fa ai suoi collaboratori. L'azienda non c'entra, è un dono che la nostra famiglia ha pensato quest'anno di fare alle persone che sono cresciute con noi. Dunque, ecco, questa è la scelta di Brunello Cucinelli, un modo imprenditoriale anche per fidelizzare sempre più i propri collaboratori. Certo, scrive la Stampa, se lo può permettere, perché in questo 2012 di crisi la sua società ha corso in modo straordinario in borsa, facendo a un certo punto più 50% rispetto alla quotazione avvenuta 7 mesi fa, ma insomma una decisione certamente non da tutti gli imprenditori, una decisione che gli merita giustamente un articolo. Il regalo di Natale di Cucinelli ai dipendenti, 5 milioni di utili suddivisi, fanno circa 6.000 euro a testa. Che dire, prima della pubblicità, e voglio regalare anche questa bella pagina intensa che Goffredo Buccini scrive sul Corriere della Sera, pagina 21, che riguarda la piccola Angela Celentano. Ve la ricordate? È una vicenda che ha sicuramente sconvolto tutta l'Italia, una vicenda che negli anni, tra l'altro, ha avuto varie puntate. 10 agosto 96, la bambina Angela Celentano, di 3 anni circa, scompare dal Monte Faito. L'ultima missione a Cancun per cercare l'ex bambina Angela. Sapete che dal Messico era arrivata una mail di recente dicendo: guardate, sono Angela, questa è la mia foto, dicendo questa ragazza di essere stata adottata con il nome di Celeste Ruiz. Ha detto sono io, da lì è nato il mistero. Ebbene, racconta Goffredo Buccini, inviato a Vico Equense in provincia di Napoli, che i carabinieri sono partiti per il Messico per cercare di rintracciare questa ragazza che potrebbe essere Angela Celentano cresciuta. E racconta Buccini il poster coi brillantini, i nomi di tutti e tre, Rossana, Angela, Naomi, i vecchi peluche belli allineati, il suo piumone turchese sul letto accanto ai letti delle sorelle, la stanza delle bambine l'attende ancora, l'aspetta da quel 10 agosto 96, anche se ormai le bambine sono cresciute. Pure Angela ne avrebbe 19 di anni e nel suo armadio 16 regali ancora impacchettati, uno per ogni Natale lontano da qui. Ma quest'anno il regalo se lo sceglie da sola, mia figlia. Così sospira mamma Maria che ci crede, questo Natale Angela tornerà a casa e lo passerà con noi. E d'altronde, racconta Buccini, si sente un'aria nuova, quasi elettrica nella casa dei Celentano, alle propaggini del Monte Faito. È la volta buona, insiste la mamma, ogni giorno vissuto come se fosse l'ultimo giorno senza Angela. Questo ci ha uniti anche con le altre due figlie. E lei il pilastro della famiglia, racconta Goffredo Buccini di questa missione dei carabinieri che sono in Messico per cercare di scoprire l'ultimo mistero, si spera quello definitivo, sulla scomparsa di Angela Celentano. Vi segnalo questa pagina che trovate sul Corriere, pagina 21, tra sogni, speranze dei familiari di ritrovare la loro bambina scomparsa 19 anni fa. C'è anche una foto, effettivamente è impressionante la somiglianza della bambina Angela con questa celeste ragazza cresciuta di 19 anni. Ora però si tratta di vedere se davvero sia lei oppure no. Eccoci qui, allora, la maggior parte dei quotidiani oggi è dedicata alle primarie del centro-sinistra. Lo spoglio non è ancora finito, ma ormai è chiaro che andranno al ballottaggio Bersani e Renzi. Dunque non c'è stato un vincitore, Bersani si attesta al 44% circa, Renzi al 36%, domenica prossima, il 2 dicembre, ci sarà il ballottaggio. È stata sicuramente anche una festa di folla, perché sono quasi 4 milioni le persone che si sono recate ai seggi per scegliere il candidato premier per il centro-sinistra, e dunque certamente questa è una soddisfazione, tanto che tra i vari articoli che ci sono, ne ho selezionato qualcuno, Pierluigi Bersani a pagina 3 del Corriere della Sera, nell'articolo di Monica Guerzoni, viene definito un leader stracontento. Questa giornata l'ho voluta io, abbiamo vinto, sono stracontento. Alle 23.07 ieri il segretario del PD varca la soglia del minuscolo Bersani Point di Piacenza, abbraccia a distanza Matteo Renzi, definito un protagonista, lo ringrazia, al tempo stesso lo punzecchia, dice che ho accettato la sua proposta di fare le primarie, ma no, questo lo dico in amicizia, non glielo consento, le primarie sono io che le ho volute. Se vince lo farà ministro, non facciamo mica quei bilancini lì. Io non li faccio e lui non li farebbe. Dunque parte già la settimana più calda, quella che porterà al ballottaggio. Dice Bersani, giura che il ballottaggio non gli fa paura, ne farebbe volentieri anche 7, pur di stanare i delusi, gli arrabbiati e veder crescere ancora il suo PD nei sondaggi. E poi si rivolge al centrodestra dicendo: Alfano invece è in difficoltà, mi dispiace, spero facciano le primarie anche loro. Renzi invece riapre una partita già chiusa, Bersani però non sembra curarsene, una settimana in più con questo clima non guasta, dice Bersani, che ieri ha votato, poi è stato in famiglia, così come Renzi, ha partecipato alla mezza maratona di Firenze, poi è andato a votare, è stato 2 ore e rotte in coda a Renzi, durante le quali twittava dicendo: avevo detto di mettere più seggi a Firenze. Vabbè, pazienza, alla fine ha votato attorno alle 20, quasi alla chiusura dei seggi. Sta di fatto che per qualcuno è un po' una sorpresa il fatto che comunque si vada al ballottaggio. Renzi non ce l'ha fatta, al terzo posto è arrivato Vendola attorno al 16%, e infatti sono quei voti che ora contano sicuramente, perché come racconta Goffredo De Marchis a pagina 3 di Repubblica, il segretario, cioè Bersani, ora punta su Nichi. Bisogna per forza trattare con Sel o al secondo turno si può rischiare. Questa è una frase che viene attribuita, non è una frase detta, ma viene attribuita a Bersani. Nichi Vendola, scrive De Marchis, è ancora in campo per il ballottaggio. Intorno ai suoi voti, circa il 15%, si gioca una partita in salita anche per il più scontato dei suoi alleati, Pierluigi Bersani. Darà il suo sostegno esplicito al segretario del PD per domenica? La risposta del governatore è secca: no. E infatti Vendola dice: vedrò questa settimana come comportarmi per il voto, per le indicazioni di chi mi ha votato, su chi far confluire, se vogliono, i voti. Ed è proprio su questo che scrive Goffredo De Marchis, punta anche Matteo Renzi, quello che sembrerebbe il più acerrimo rivale politico di Nichi Vendola. E invece lo dice il sindaco di Firenze, che conta di recuperare anche una parte di quell'elettorato. Chi vuole davvero il cambiamento, i giovani che stanno con Vendola, possiamo riprenderli. Questa è la strategia di Matteo Renzi. Mentre c'è anche questa frase di Sposetti, Ugo Sposetti, ex tesoriere del DS, bersaniano, che con Renzi e con le spese delle primarie della campagna di Renzi ha avuto molto a polemizzare, ha detto: beh, facile, io sono sempre stato contro il secondo turno, bastava mettere la soglia al 40% e Bersani avrebbe vinto e avremmo chiuso la partita questa sera. A me è venuta facile una battuta, sì, bastava anche dire vince colui il cui cognome inizia con la lettera B ed era ancora più facile. Comunque Sposetti dice: non dovevamo fare il ballottaggio, bisognava vincere, e chi vinceva il primo turno, chi prendeva più voti doveva essere candidato e a questo punto avremmo vinto. E infatti Pubblico di Luca Telese mette in prima pagina la copertina con la foto di Bersani e il titolo: stanotte ha dormito male, o meglio stanotte non ha dormito bene, Bersani si ferma al 44,5%, come dire c'è il timore perché nulla ora è scontato e Renzi potrebbe recuperare questi circa 8 punti percentuali in vista del ballottaggio, tanto che Renzi, scrive il Corriere della Sera, è sicuro ora si riparte da 0-0. Chi ha votato anche spigolature e articoli un po' di taglio sulle primarie del centro-sinistra, c'è da segnalare intanto che il Corriere della Sera con Alessandro Trocino a pagina 8 racconta un po' tutti i voti dei vari big. Prodi ha scelto e vota, ma non dice per chi. Ha votato anche Clio Napolitano, la moglie del presidente Napolitano. Ha votato anche Penati a Milano e l'aveva già detto anche qui ai nostri microfoni: sto con Bersani perché non avrei dovuto. Ha votato anche Alberto Tedesco, ex assessore alla sanità della giunta di Nichi Vendola, anzi no, scusate, lui non ha votato, l'ex assessore arrestato poi uscito dal partito: volevo evitare strumentalizzazioni, non ho votato ma avrei votato certamente Bersani. Giuliano Pisapia invece a Milano ha votato Vendola, legato a lui da una vicinanza personale. Romano Prodi, come dire, ha votato, fa anche un'intervista, ha intervistato da Giovanni Egidio su Repubblica, pagina 4, adesso ballottaggio alla francese, nel paese c'è di nuovo voglia di politica, ma Prodi non dice per chi ha votato. Dice solo straordinario questo momento, con 5 candidati era comunque un'eventualità molto probabile andare al ballottaggio, nessuno esce indebolito da un voto del genere, io certo che tornerò a votare anche per il ballottaggio, la mia agenda teneva conto anche di questa ipotesi, ma certo non dirò per chi. E perché? Perché credo forse immodestamente di poter ancora influenzare qualcuno e non mi va. Così Romano Prodi. Mentre stranezze anche delle primarie, due ne segnalo. Una è il fatto che nella periferia di Napoli, a Casoria, trionfa Tabacci, pagina 6 della Stampa. A Casoria Tabacci ha preso più del 50% dei voti. Campagna elettorale per le primarie straordinarie da parte di Tabacci. Jacoboni: si può esultare perché in uno spicchio d'Italia ha votato meno gente dell'altra volta? Sì, se siamo nella periferia nord oppure orientale di Napoli, quella del voto inquinato, dei capi bastone, delle zone grigie politica camorra. Il paradosso della città di Saviano e Maradò nel giorno delle primarie è questo: un boom di voti in via Toledo, al Vomero, a Chiaia, dove ha vinto Renzi, e invece un calo netto di elettori a Barra, San Giovanni a Teduccio, Scampia, rispetto a quelle che qui chiamano le altre primarie, quelle là, il pasticcio della sfida 2011 annullata tra Andrea Cozzolino e Umberto Ranieri. Ci sono però casi clamorosi da rivedere. A Casoria Tabacci, con lapide il proconsole locale Tommaso Casillo, su 4.000 voti ne ha presi più della metà. Ad Afragola su 1.500 voti ne ha presi un terzo. A Caivano si è pappato 600 voti su 1.200. Quindi 50% a Caivano. Con l'api si vola davvero in queste zone, racconta dunque la Stampa. Dall'altra parte, le primarie del centrodestra. Ci saranno? Non ci saranno? Beh, questo è il grande mistero. Oggi Berlusconi tra un'ora circa parlerà a Canale 5, intervistato da Maurizio Belpietro, e forse già dirà qualcosa. I giornali raccontano che giovedì sarà la nascita della nuova lista, il nuovo partito, anche se Sandro Bondi in un'intervista al giornale dice non chiamiamolo partito. Come si chiamerà la nuova Forza Italia? Farà un nuovo partito Silvio Berlusconi? Scenderà in campo nuovamente? Allora, ci saranno le primarie del centrodestra, sì o no? Per ora sì, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 10, le primarie per ora ci sono. Ieri Alfano era ospite anche di Massimo Giletti a Domenica In. Certo, c'è sempre l'incognita Berlusconi. Alfano ancora ha ribadito, se lui corre, se lui decide, scendo in campo, allora le primarie non hanno senso e vedremo. Il problema è che Berlusconi pare abbia in testa altro, e cioè altro rispetto al PDL. Guardate il retroscena di Paola Di Caro a pagina 11 del Corriere della Sera. Angelino si tenga pure il PDL. Il Cavaliere lancia Forza Italia. Chissà se già da oggi dirà il nome, che sarà quasi certamente Forza Italia, ma qualcuno giura potrebbe essere Forza Italiani, il nuovo nome su cui punta Silvio Berlusconi. Sta di fatto che raccontano i fedelissimi presenti al summit ultimo che la sua idea è chiara: Alfano può tenersi il PDL e la lista nuova di Zecca da lui guidata si affiancherebbe per raggiungere tutti insieme un bel 30%. Il 15-20% sarebbe il suo, secondo Berlusconi, cioè lui 15-20% e più 10 circa del Popolo della Libertà. In attesa dei focus group che tra oggi e domani dovrebbero arrivare sulla sua scrivania, la sondaggista di fiducia lo ha avvertito: attenzione, perché il rischio è che un PDL guidato da Alfano, svuotato, ridotto a una scarpa vecchia, prenda percentuali da 4-5% e non di più. Soprattutto è ancora tutta da organizzare la reazione dei vertici del Popolo della Libertà. Sta di fatto che questa sarebbe l'idea anche per il retroscena di Repubblica: Berlusconi giovedì rinasce Forza Italia. Non ho capito bene perché questa data di giovedì, che dà anche il giornale, però in settimana giovedì nasce il nuovo movimento di Berlusconi. Silvio Berlusconi annuncerà le dimissioni alla presidenza del Popolo della Libertà. Eccolo qua, giovedì. Come si chiamerà? Forse appunto Forza Italiani. Forza Italiani. Notizia politica, prima di parlare di Mario Monti, piccola ma non indifferente. Ricordate giorni fa che c'è stata la sfuriata di Roberto Formigoni, raccontata dopo una partecipazione al Cristina Parodi Live. Finita l'intervista, sgradite alcune domande, Formigoni, uscito e dopo essersi tolto il microfono, ha urlato davanti a vari testimoni alla sua portavoce: adesso tu stai qui e spacchi la faccia a Cristina Parodi e ai giornalisti, insomma, che hanno organizzato questa cosa che a lui evidentemente era sgradita. Ebbene, la portavoce di Formigoni, Gaia Carretta, si è dimessa. Si era presa tempo per riflettere. Alla fine, dopo la sfuriata di Formigoni dietro le quinte della trasmissione della Parodi, la portavoce Gaia Carretta ha presentato le dimissioni senza sbattere la porta, ma andare avanti le era impossibile, così leggo da una piccola notizia di Repubblica a pagina 15. In tutto questo, osserva tutto questo Mario Monti. Il Presidente del Consiglio, ieri l'avete visto, intervistato da Fabio Fazio, che tempo che fa? Se non l'avete visto, noi abbiamo fatto sentire il nostro Bari in onda alle 6.30, un Mario Monti che alla domanda pensa di rimanere anche nel 2013 a Palazzo Chigi? Beh, non escludo nulla, ha fatto una sua risposta molto molto meditata, molto molto lenta, molto studiata, sembrava in ogni singola parola. Sta di fatto che ha detto Mario Monti: non escludo nulla, ascolterò Napolitano, al quale devo tanto i consigli, devo anche tantissimo per avere scelto me per darmi questo incarico in un momento di crisi, di difficoltà per l'Italia, rifletterò su tutte le possibilità, nessuna esclusa, ma la scelta è mia. Cioè un Mario Monti che alla fin fine dice rifletterò, ascolterò i consigli di Napolitano, però la scelta è mia. Insomma, un Mario Monti che dunque vuole rivendicare questa idea di poter scegliere. Tra l'altro, in un retroscena di Francesco Bei su Repubblica, a pagina 13, Mario Monti pare che voglia sciogliere tutte le riserve entro la fine dell'anno. Questo infatti è il titolo, la svolta del professore: entro la fine dell'anno sarà chiaro quel che farò. Il premier cosa vuole evitare? Soprattutto conflitti con il Partito Democratico. Vabbè, questo è il menù della politica. Per quel che riguarda l'economia, è un qualcosa che riguarda tutti i cittadini, visto che ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sembra naufragare la possibilità prevista da un emendamento alla legge di stabilità al Senato di scontare gli scontrini, scaricarli, scontrini e fatture, in modo da dare una possibilità ai cittadini di risparmiare dei soldi e incentivarli a chiedere scontrini e fatture, quindi contrastare dunque il nero. Bonus scontrini appeso a un filo, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7, raccontano Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente: ci sono problemi di copertura, incertezze politiche che frenano la detraibilità delle spese. Uno sconto fiscale su ricevuti e scontrini per combattere l'evasione, la prima risposta del governo al Parlamento è stata una netta contrarietà. Almeno in base al resoconto della seduta di martedì scorso in Commissione Finanza, dove si discuteva la delega fiscale, l'idea di concedere un bonus fiscale ai cittadini per invogliarli a chiedere sempre la fattura, secondo il sottosegretario dell'economia Vieri Ceriani, finora non ha mai funzionato. E dunque c'è una netta contrarietà del governo. Staremo a vedere, ma certo questo bonus scontrini, questa detraibilità per gli scontrini, pare che davvero sia un qualcosa di difficile. La notizia di cronaca che trovate sul Corriere, sul Secolo XIX, sul Giornale, una notizia di cronaca che riguarda sempre il tema annoso e dibattuto che di tanto in tanto torna, della legittima difesa. Spara un colpo al ladro in fuga, il PM lo indaga per omicidio. Succede a Caravaggio, dove un commerciante esasperato alla terza rapina ha sparato nel buio, dice non volevo uccidere, così ai carabinieri, al magistrato, agli amici. Angelo Cerioli ha ripetuto incessantemente questo, nonostante fosse già stato vittima di una rapina, di due furti, mai avrebbe voluto trasformarsi in giustiziere, e ha sparato con la calibro 38, ha fatto fuoco un centinaio di metri più in là. Ecco il motivo per cui viene accusato di omicidio, perché a 100 metri è crollato Dimitri Baciu, rumeno, 43 anni, uno dei due individui che stavano tentando il colpo. Ora è indagato per omicidio, c'è sul Corriere, c'è sul Secolo XIX, sorprende il ladro, spara e lo uccide, era buio, non voleva ammazzarlo, ma così è andato. La Gazzetta dello Sport, allora devo chiudere, il titolo è svolta Milan, allarme Juve per questa vittoria di rigore c'era, vedete, Muntari aveva la mano tesa, l'avete visto Muntari come aveva la mano tesa, con una mano così di Muntari era rigore. Ma soprattutto nella notte Berlusconi ha detto, questo leggo un'ansa, questa dichiarazione: le è piaciuto vincere con un rigore dubbio? È la cosa che dà maggiore soddisfazione. Silvio Berlusconi. Più avanti, tra poco, parleremo delle primarie del centrosinistra alle 8.30. Prima però vogliamo parlare di una proposta che ha fatto un po' discutere sui giornali, un articolo di Sergio Rizzo, con la risposta poi dei protagonisti, i senatori Rutelli e Viespoli. E voglio salutare per questo il senatore Pasquale Viespoli. Buongiorno, senatore. Buongiorno a lei. Benvenuto. Buongiorno. Lei è presidente del gruppo Coesione Nazionale, gruppo al Senato. Allora, la proposta che ha fatto discutere è questa. Lei, il Corriere all'inizio l'ha messa così: ci vogliono dare 90 nuovi parlamentari. Così diciamo subito non è, anche perché sennò le verrebbero a dormire nello zerbino, caro senatore, questo lo sa bene anche lei. Allora, però lei insieme a Rutelli ha proposto un disegno di legge di revisione costituzionale che prevede di eleggere tramite un suffragio universale, un referendum, una commissione formare una costituente, diciamo, formata da 90 membri che stia in carica un anno e che abbia il compito di riformare una parte della Costituzione, la seconda parte, quella sui poteri del capo dello Stato, il bicameralismo e anche proporre, immagino, il taglio dei parlamentari. Esatto. Allora, senatore, ma perché ci vuole una commissione per fare una cosa che voi parlamentari potete fare se volete in 448? Ma guardi, lo dice la storia italiana e l'incapacità di definire un processo di riforma costituzionale. Lo dice il fallimento delle tante bicamerali, lo dice il fatto che anche quando si è tentato di riformare la Costituzione con l'articolo 138, il referendum confermativo non ha dato un esito positivo. Lo dice l'esigenza di eliminare il vero costo che dobbiamo fronteggiare, e cioè quello delle mancate riforme. E lo dice anche un'altra esigenza, e cioè il fatto che ci troviamo di fronte ad una riforma organica che dobbiamo definire, e che quindi forse una commissione costituente è la scelta migliore per costringere il sistema a farle finalmente. Però, Presidente, capisce che la questione è questa, cioè lei ha detto della dimostrazione dell'incapacità della politica di fare le cose fino adesso, la bicamerale, eccetera. Perché una commissione dovrebbe riuscirci? Ma una commissione dovrebbe riuscirci perché c'è una premessa che va fatta nel provvedimento. Lei ha fatto riferimento al referendum. Bene, il provvedimento che cosa dice? Il processo costituente inizia con un referendum di indirizzo, cioè a dire la sovranità popolare indica la scelta della forma di governo e quindi indirizza il lavoro della Commissione Costituente, che ha l'unico compito, cioè quello di definire una proposta e una commissione redigente, cioè una proposta inemendabile da presentare a Camera e Senato. Camera e Senato, ai sensi dell'articolo 138, la possono approvare o la possono respingere. Se lo fanno con i due terzi, si chiude la partita, altrimenti si torna alla sovranità popolare. È un grande fatto di riappropriazione da parte del cittadino dello scettro della sovranità. Sì, però, senatore, deve essere la Repubblica. A questo sì, però ho due obiezioni su questo. La prima, appunto, è che il lavoro di un'eventuale commissione alla fine di un anno poi dovrebbe essere approvato da Camera e Senato. Certo. E beh, però qui torniamo, scusi, alla questione che si può bocciare il lavoro della commissione. No, ma lei pensa che un lavoro che inizia con un'espressione di sovranità popolare così forte, ma d'altra parte è indiscutibile che si è trovato un punto di equilibrio rispetto a chi proponeva un'altra impostazione, cioè quella di dire nel momento in cui si definisce la proposta di revisione della Costituzione si sottopone immediatamente al referendum confermativo. C'è stato in commissione un punto di equilibrio che ha ritenuto di individuare una sintesi in questo percorso costituzionale che chiama in causa Camera e Senato, ma con l'inemendabilità della proposta, prendere o lasciare. Prendere attenzione, o lasciare. Se la Camera non la dovesse approvare con la maggioranza del 138, ci sarebbe il referendum, quindi tornerebbe la parola ai cittadini. Quindi a me pare una riforma che più anticastale, se si può usare questa espressione, non ci può essere. Ma la migliore riforma contro la casta, se mai lei dice dovessimo identificarci così, è che le facciate voi in tre mesi. Guardate che anche tre mesi fa, senatore Viespoli, tutti dicevano: guardi, sicuramente me, ne taglieremo un po'. Perché poi io non mi tiro indietro rispetto alle responsabilità, però credo che sia anche giusto dire che abbiamo tentato inutilmente di sottolineare questo elemento importante, cioè dire un governo tecnico apre lo spazio alla politica per recuperare forza, senso, significato, proprio se la politica utilizza questo spazio e questo tempo per fare la riforma costituzionale. Bisogna prendere atto che questo non si è determinato e dunque bisogna recuperare l'intuito iniziale dei costituenti, quello di determinare una commissione, un'assemblea dedicata alle riforme. Ma lei sa, la conosce bene meglio di me, la vulgata, no mi scusi senatore, la conosce meglio di me la vulgata in politica, che quando non si vuole fare nulla si fa una bella commissione, una banalità. Perché non stiamo parlando di una qualsiasi commissione, stiamo parlando di una commissione eletta direttamente dal popolo e che risponde direttamente al popolo e che ha un solo obiettivo e un solo compito, quello di fare finalmente le riforme. Si può essere d'accordo o meno su questa impostazione, ed è giusto che ci sia confronto, ci sia dibattito, perché è la prima volta in Italia che si delinea una sorta di percorso costituente. Certo, verrebbe da dire, se 900 parlamentari non ce la fanno, ma ci vuole il supporto dei 90 della Commissione. La contestazione è legittima. Io le potrei porre il problema inverso. lei scommetterebbe sulla possibilità di riformare la Costituzione in una condizione dove la prospettiva non ci consegna neanche certezza di governo? Come si può immaginare che in una condizione, come dire, dove la quotidianità prevale, dove il rapporto di governo è fondamentale, dove i contrasti tra opposizione e maggioranza rischiano di caratterizzare la prossima stagione politica, come si può pensare che i cittadini abbiano davvero garanzia che il prossimo Parlamento sia un Parlamento costituente? Noi diciamo, l'esperienza suggerisce questo, sì, e suggerisce cioè il fatto, ma ripeto, è contestabile ovviamente, suggerisce il fatto che forse, una commissione, un'assemblea costituente, noi abbiamo ritenuto che il punto d'equilibrio fosse una commissione costituente con funzione redigente, possa essere il luogo dove finalmente si affrontano i nodi fondamentali. Lei dice anche lei stesso, no, ma è chiaro, anche lei stesso, però titolo quinto, la forma di senatore, anche lei stesso dice forse, cioè non è detto, ma è incredibile, certo, come in Italia non si riesca a fare una riforma, cioè capisco. Finora, l'unica certezza che abbiamo è finora, ripeto, dalla bicamerale Bozzi alla bicamerale D'Alema, che è tutto fallito, alla riforma costituzionale, l'unica riforma che è stata fatta e che sarebbe stato meglio non fare per le modalità attraverso le quali si è realizzata e per i tempi di realizzazione è stata la riforma del titolo quinto, e ci portiamo ancora appresso le conseguenze negative. Senta, c'è stata anche una polemica sui costi, perché 90 membri dovessero mai venire elette questa riforma, si parlerebbe comunque nel 2014 perché è un disegno di revisione costituzionale. Esatto, bravo. Però costano, c'è stato un emendamento che però so che è stato cassato, c'era chi voleva dare a questi 90 futuribili membri l'indennità dei parlamentari. E quindi da qui nasceva l'idea. L'emendamento è stato ritirato in commissione. Ritirato. I relatori, io e il senatore Rutelli, abbiamo dato parere negativo in aula. Il problema dei costi non si pone, nel senso. Beh, prenderanno qualcosa questi 90 membri che per un anno stanno. Guardi, i 90 membri devono essere a carico delle spese di funzionamento di Camera e Senato, e bisogna prevedere una sorta di rimborso spese, punto. Tant'è che nella proposta non c'è riferimento all'articolo 69 della Costituzione, quella cioè che prevede l'indennità, come dire, le risorse. E quindi non credo che sia questo il tema, francamente. Però, senatore, l'ha sentite anche lei 6 mesi fa, anche quelli del centro-sinistra, del centro-destra, tutti a dire questa volta almeno un terzo dei parlamentari li tagliamo. Questo dobbiamo farlo entro la fine della legislatura, altrimenti. Questo è stato fatto, per la verità, anche in precedenti legislature. Come no? Quando il centrodestra fece la riforma, dentro la riforma che passò per la riforma caratterizzata dal tema della devolution, in realtà c'era anche la riduzione del numero dei parlamentari. Così come nella riforma recentemente approvata, il problema è che l'esito finale non si è mai realizzato, un motivo in più per fare una commissione costituente con l'obiettivo che sarà indicato nel provvedimento, nel disegno di legge, con l'obiettivo di ridurre il numero dei parlamentari. Ma anche qui, diciamoci la verità, perché non porsi il problema del superamento del bicameralismo che risolverebbe il problema? Ci sono proposte in campo di tipo diverso. Ma magari, ma lo dice a me, cioè se lei lo dice agli italiani, guardi ma che io non lo dico agli italiani, io sono parte di questa classe dirigente e mi prendo la mia quota di responsabilità, e proprio perché credo di avere un minimo di responsabilità residua, prendo atto di una realtà. Finora, lo si può valutare come si vuole, ma finora le Camere non sono riuscite non con sono le procedure previste a determinare la riforma costituzionale della quale c'è necessità e bisogno. Ci riuscirà una commissione. Lei è sicuro? Ci riuscirà un tentativo? Che non costa. No, ma certo, ma è la fiducia in questo tentativo, cioè l'idea che una commissione... Ho capito, ma io non mi rassegno a che non si facciano le riforme. Ma guardi, io non mi rassegno al fatto che un Parlamento che deve legiferare non riesca a legiferare su questo... Sì, ma il serpente si morde la coda e lei mi può continuare per tutta la trasmissione a dire questo, ed io con tutta la trasmissione, con senso autocritico, dirà, effettivamente, purtroppo il Parlamento le dovrebbe fare. Purtroppo avrebbe già dovuto farle, purtroppo il bicameralismo andrebbe superato, purtroppo il numero dei parlamentari andrebbe ridotto, ma purtroppo non si è fatto. E effettivamente allora che facciamo? Così. Ci affidiamo ad una prossima legislatura, ma guardi, la stessa iniziativa che è stata assunta da una serie di politologi, di giuristi, di costituzionalisti, che dice sotto quella definizione scegliamoci la Repubblica, chiede alle forze politiche fin da ora di impegnarsi a fare in modo che il primo atto della prossima legislatura sia il referendum d'indirizzo, l'introduzione del referendum d'indirizzo che ponga agli italiani il quesito di scelta a proposito della forma di governo. Sì. Noi lo inseriamo all'interno di questo provvedimento così. E costringiamo la prossima legislatura ad avviare questo processo. Senatore, io un'ultima cosa, mi faccia fare invece, cambiando tema, una domanda sul fatto, lei è di Benevento se non sbaglio? Sì, sono di Benevento. Perché settimana scorsa avevamo il presidente della provincia di Avellino, che insomma sono tutti in fibrillazione su questa storia delle province, lei invece sarà contento perché accorpano ad Avellino e pare che Benevento guardi, io sono contento di un fatto, diventa capoluogo. La dimensione attuale delle province, perché io sono convinto che in Italia bisogna affrontare quella che definirei la questione dimensionale, che vale per il sistema produttivo e per il sistema istituzionale. Ci vogliono organismi di area vasta e quindi una provincia delle aree interne che mette insieme Benevento ed Avellino è una cosa positiva. Oh, anche perché mettono, anche perché Benevento è capoluogo, diventa. No, ecco. Non solo per pare così, il tema pare del così. Capoluogo è un elemento compensativo. Se Benevento diventa capoluogo, Avellino diventa leader della provincia più grande, della prossima provincia delle aree interne della Campania. Come leader, se il capoluogo è Benevento? All'Avellino non la mandano giù questa cosa, eh? Guardi che... Io credo che debba prevalere la capacità di rendersi conto che Benevento ed Avellino, diventando entrambe più grandi, recuperano un ruolo e una funzione in Campania e definiscono quella dimensione giusta per fare e per rendere il sistema territoriale più Ho capito, dimensione giusta, ma vada a dirglielo a quelli di Avellino che diventano capoluogo di Benevento, poi. Come? Vada a dirglielo a quelli di Avellino che stanno in provincia di Benevento. Come immaginate il percorso? Saranno i leader e saranno leader di una provincia più grande. Ma come quindi saranno i leader? Un elemento di integrazione, di compensazione, non di contrapposizione. Ma guardi che il presidente della provincia di Avellino è furibondo per sta cosa. Il presidente della provincia di Avellino, anziché pensare di affrontare il tema con una sorta di municipalismo e di campanilismo di ritorno, farebbe bene ad aprirsi ai nuovi orizzonti, una classe dirigente di avere la capacità anche di cavalcare l'impopolarità, perché è nell'interesse del territorio che ci sia una provincia di area vasta capace di svolgere una funzione protagonista in Campania. Con capoluogo Benevento, però, questo sia... Sì, ma guardi, ma noi non lo, io sono di Milano, pensato. Quindi non mi interessa, ma glielo dico perché ad Avellino sono arrabbiati. Per lei parla con uno che in maniera isolata, prima ancora che si definisse l'accorpamento tra Benevento ed Avellino, si è posto il problema del superamento delle province e ha sfidato l'impopolarità dicendo, pur consapevole delle contrapposizioni storiche tra Benevento ed Avellino, che era giusto questo accorpamento. Quindi... Perché bisogna superarla questa dimensione, altrimenti corriamo il rischio della polverizzazione, della frantumazione che non fa, rende giustizia alle esigenze dei cittadini di avere servizi in un'economia di scala capace di renderli più efficaci e meno costosi. No, ma lo dice a noi, noi siamo su questo, siamo con lei. Allora faccia di tutto, faccia di tutto per fare passare. No, no, ma è chiaro. Faccia di tutto per far passare questo decreto del ministro Patroni Griffi, insomma, perché pare che ci siano delle resistenze. Intanto la ringrazio, senatore, per essere stato con noi. Ah, propongono di fare la provincia di Benellino, se vuole. Questa non è male, un ascoltatore di SMS. Grazie a Pasquale Viespoli, senatore, ci ha raccontato di questa proposta di legge firmata con Rutelli per creare una commissione, eleggere una commissione di 90 membri che resti in carica un anno per fare le riforme che il Parlamento effettivamente non è riuscito a fare. Le primarie del centro-sinistra, 4 milioni in coda, siete andati a votare, andrete a votare anche domenica, che ne pensate di com'è andata, che ne pensate di chi vincerà tra Bersani e Renzi, sono loro due rimasti in campo per il ballottaggio, ditecelo, 800 24 00 24, avete notato irregolarità, è andato tutto bene, i risultati portano Bersani e Renzi al ballottaggio, i risultati sono ancora parziali perché lo spoglio non è finito, ma Bersani è attorno al 44,9%, quindi 45 diciamo arrotondando, Renzi al 35,5, Vendola al 15,6, comunque Bersani e Renzi sono divisi da circa 8-9 punti percentuali e domenica ci sarà il ballottaggio. Saluto Roberto Reggi che è il portavoce della campagna per le primarie di Matteo Renzi, buongiorno e ben ritrovato Reggi. Buongiorno, buongiorno a voi. Saluto anche Chiara Geloni che è direttrice di UDEM TV, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora Reggi, intanto la domanda è questa, come pensate di recuperare, se ce la pensate di sì, immagino questi 8-9 punti percentuali per domenica? Ma intanto quando si va al ballottaggio la partita ricomincia, si è dimostrato in tante occasioni, soprattutto quando ci sono competizioni al ballottaggio, che la partita si riapre e noi pensiamo di recuperare parlando di contenuti. Spero che finalmente si riesca a fare con due soli contendenti, parlare di proposte e soluzioni ai problemi del paese, delle famiglie, delle nostre imprese. Insomma, vorremmo parlare di contenuti e convincere che la nostra proposta è più efficace di quella di Bersani, che rappresenta l'usato sicuro, ma che in questo momento l'usato sicuro rischia di essere non sufficiente, insomma, per affrontare il cambiamento, rischia di essere l'immobilismo rispetto a un cambiamento che va affrontato a viso aperto con l'innovazione. Noi pensiamo di rappresentarla al meglio, insomma. Pensate, noi parleremo di quello. Pensate di prendere anche i voti di Vendola, perché se c'è una persona che voglio dire è politicamente antitetica nel centro-sinistra a Renzi è più Vendola, che però pare abbia detto per il momento non dico diamo i voti a Bersani, deciderò in settimana. Beh sì, anche perché intanto sui valori di riferimento penso che siamo sulla stessa linea, siamo coerenti. È chiaro che le soluzioni che noi proponiamo sono diverse dalle sue, ma noi pensiamo di trovare delle soluzioni che possono metterci sulla stessa linea. È chiaro che su alcuni temi come affrontare il lavoro, i diritti dei lavoratori per esempio, non soltanto di quelli che il lavoro ce l'hanno già, ma anche di quelli che il lavoro non ce l'hanno ancora, ci sono soluzioni differenti, così come ci sono soluzioni differenti sul finanziamento pubblico dei partiti. Noi siamo assolutamente contrari e loro sono come a favore. E come fate a prendere, a convincere i voti? Su questi temi ci saranno le differenze, rimarranno, però credo che noi saremo in grado di convincere buona parte degli italiani che questa soluzione che noi proponiamo è più efficace, perché l'abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale che si può anche andare avanti senza avere il finanziamento pubblico. Io vorrei chiedere a Chiara Geloni. Chiara Geloni, oggi il Pubblico, il giornale Luca Telese, titola con la foto di Bersani: stanotte non ha dormito bene. Secondo lei Bersani è soddisfatto sicuramente per l'espressione anche democratica che c'è stata nella primaria, ma non teme davvero che con questo ballottaggio si rischi proprio il tutto per tutto? Guardi, se lo conosco, Bersani ha dormito benissimo, non credo che perda il sonno né per i titoli dei giornali e né per cose che, insomma, per una questione come questa che ha affrontato con grande fiducia e coraggio e veramente con la fiducia nella gente, compiendo la scelta di ricorrere alle primarie, a primarie aperte, e di consentire la partecipazione di altri candidati del PD, diversamente da quello che prevede lo statuto del partito, quindi facendo una modifica ad hoc. Se fosse il tipo che non dorme di notte pensando oddio forse non vinco, forse non faccio il premier, non credo che avrebbe fatto queste scelte. Però, però rischia sicuramente, cioè, d'altronde ha rischiato già con le primarie, visto che lo statuto del PD prevedeva che il candidato premier, appunto, debba essere il segretario. Ma rischia e sa che la politica è anche rischio, quindi non credo che, mi pare che abbia vissuto e che viva tutto questo con grandissima serenità. È chiaro che se chi arriva primo vincesse sempre il ballottaggio non servirebbe fare i ballottaggi, quindi è chiaro che c'è un elemento di riapertura della partita e di rischio anche per chi ha avuto comunque un risultato molto forte e molto chiaro. I titoli dei giornali di oggi sono stati fatti sulla base di una serie di dati che poi nella notte e anche in queste ultime ore sono in parte contraddetti dal dato ufficiale. Ci sono quasi 10 punti, 9 punti e mezzo di distacco tra Bersani e Renzi, il che significa Bersani è molto vicino al 50%, al 45%, al 45%, quindi il suo risultato, la sua prevalenza è molto chiara e questa prevalenza facilmente potrà essere consolidata nel voto di domenica prossima. Che ne pensa di Beppe Grillo, che ha definito tutto questo una buffonata? Che detto da, scusi la battuta, ma detto da un buffone è piuttosto eloquente. Insomma, Grillo voleva partecipare alle primarie qualche anno fa, sì, è vero, è vero. E fece un gran casino perché non gli venne consentito. Sì, appunto, non gli è stato consentito. Si è iscritto un po' dovunque, è stato cacciato un po' a calci da dovunque. È stato cacciato, gli è stato opposta una regola che dice che per partecipare alle primarie bisogna. Per partecipare a primarie di coalizione bisogna far parte di una coalizione, per partecipare a primarie di partito bisogna far parte di un partito. Gli è stato detto che non era il caso e quindi evidentemente quando le cose avvengono, insomma, io credo che chi ha partecipato alle primarie ieri e sono state molte persone, sono stati 3 milioni e oltre di persone, e non ha percepito di partecipare a una buffonata. No, questo sicuramente no. Seria, con grande serietà. Ma certamente Beppe Grillo l'ha fatto anche perché teme, sicuramente, insomma, è ormai entrato nell'agone politico. Vorrei tornare un attimo a Roberto Reggi, non è che le voglio rovinare la giornata, ma le voglio far risentire la voce di Susanna Camusso, che ieri già sorride, che ieri ha urne aperte, anche se sono le primarie, non è che sono però insomma ci sono delle regole democratiche, a urne aperte da Lucia Annunziata ha detto questo. Una vittoria di Renzi, non stavolta ma magari in seconda battuta se si va, sarebbe una tragedia per la CGIL? Ma guardi, adesso io penso che le tragedie non ci sono mai, soprattutto quando si è di fronte a un voto democratico. Sarebbe sicuramente un problema. Le ricette sul lavoro che io ho visto rappresentate all'ultima occasione, all'ultima Leopolda, sono proposte molto distanti dalle nostre. Secondo me sono anche sbagliate rispetto ai problemi del Paese, ma ovviamente sarebbe un confronto di merito. Ecco, sarebbe un problema. Poi ha detto ho votato Bersani. Reggi, perché è così infastidito? Non poteva dire Susanna Camusso a urne aperte voto per Bersani e Renzi è un problema se vince? Beh, a parte il cattivo gusto di parlare ad urne aperte, un segretario di un sindacato così importante, penso che abbia sbagliato profondamente, come abbia sbagliato quando ha detto che Ichino non doveva far parte del PD, come se fosse lei a decidere chi fa parte del PD e chi non lo fa. E comunque il fatto che la Camusso, che rappresenta la conservazione in questo momento, sostenga Bersani, la dice lunga su quanto sia invece necessario una innovazione anche nel garantire i diritti dei lavoratori, perché guardate che se noi continuiamo a pensare che i diritti dei lavoratori vanno preservati soltanto per quelli che il lavoro ce l'hanno già, non riusciremo mai ad accogliere i giovani nel mondo del lavoro con gli stessi diritti, e questo non va bene. Noi sappiamo che il sindacato, in particolare la CGIL, è conservatore perché conservi i diritti di chi ha le tessere e di chi il lavoro ce l'ha già, ma non va bene, non va bene assolutamente. Questa è una differenza grande tra noi e Bersani, per esempio, e chi appoggia Bersani. Allora, mi faccio sentire degli ascoltatori. Paolo da Ravenna. Ravenna, buongiorno. Pronto, buongiorno. L'hai votato? Certo che ho votato. Le posso fare una domanda subito? Mi sono collegato tardi, sì. Non so chi è la signora che parlava. Chiara Geloni è direttrice di UDEM TV. Perfetto, ecco. Buongiorno anche a lei. Allora, io volevo solamente dire, io ho votato per Renzi, io non ho mai votato alle primarie del PD e sono una di quelle persone che fino ad oggi non si è mai sentito rappresentato da quelli che sono i nostri vecchi politicanti. Questa di Renzi secondo me era un'idea nuova. Cioè lei non ha mai votato alle primarie del centrosinistra, ma questa volta lei in genere è un elettore di che, come faccia capire, tanto è nell'anonimato del telefono, lei in genere cosa vota? Assolutamente sì, io sono un centrista, però diciamo che non mi sono mai neanche nelle sarebbe stato già voto destra, ecco. Sono stato tentato da proprio non andare a votare mai più, insomma. Ma lei ha mai votato a centrodestra? Perché sarebbe il caso, no? Sa che Renzi ha detto prendiamo anche i voti del centrodestra. Assolutamente sì. Ha votato il centrodestra, sì, e ha votato Renzi. Sì. Anche perché io abito in una roccaforte qui della sinistra, allora deve capire che purtroppo funziona sempre così, che dove ci sono delle realtà che sono molto consolidate, sia di destra che di sinistra, io penso che ci siano dei problemi, cioè si verificano prima o poi dei problemi. Allora, io non so come Bersani, secondo me sarà anche una persona non è questione di avercela, uno fa una scelta. Certo, nel senso che non ho votato Bersani non perché non mi fido come uomo, il problema è tutto quello che ci sta attorno, insomma. Quindi, l'apparato. Fatemi sentire ancora, se sono brevi, gentilmente, due ascoltatori. Paolo da Ferrara, buongiorno Paolo. Buongiorno a voi tutti. Lei ha votato? Sì, ieri sera ho votato con mia moglie e da sempre elettore moderato di sinistra. Ecco, ho fatto presente... Chi ha votato, se può sapere chi ha votato? Sì, io ho votato per Bersani. Mia moglie non so se ha votato per Bersani o per Renzi, uno dei due. Il voto è segreto. Io non glielo ho chiesto, me l'ha detto. Dica. E ho fatto le mie così rimostranze, ho fatto presente... Sì. Perché dovevo pagare 2 euro per esprimere un voto? Sì. E loro mi hanno detto ti facciamo votare anche senza pagare. Dico fallo presente alla direzione. Come no? Adesso per radio sono contento di aver che mi avete chiamato e volevo dire al signor Reggi, a Renzi che dice che insomma lui è per l'abolizione del finanziamento ai partiti. Perché hanno chiesto questi 2 euro in questo brutto tempo? 2 euro per 4 milioni sono 8 milioni. Reggi, 2 euro, perché a parte che sulle regole, questa è una cosa che avete contestato delle regole, oppure questo vi va bene, Reggi, 2 euro? No, ha chiesto il PD, tutta la coalizione, per organizzare le primarie. Le primarie hanno un costo, ancorché sono diciamo sostenuti da un'attività di volontariato imponente, hanno un costo che deve essere in qualche modo ricavato. Poi io sono d'accordo con lei che basterebbe questo, bisognerebbe fare così sempre, non chiedere i soldi pubblici. Io sono guardi che Renzi è l'unico che dice questa cosa, però perché invece Bersani e tutti quegli altri che erano competitor dicevano che invece bisogna continuare a chiedere i soldi, finanziamento pubblico ai partiti, in barba a un referendum che ha detto esattamente il contrario. Quindi noi Renzi è per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, e su questo Chiara Geloni non crede che Bersani perde un po' di popolarità in questo momento in cui divampa questo tema anche dell'antipolitica? Se Bersani si preoccupasse di dire cose popolari e di assecondare tutti i possibili umori che possono attraversare l'elettorato, certamente direbbe basta con i soldi pubblici ai partiti. In realtà questa questione è molto seria e io ho trovato positivo e bello della giornata di ieri il fatto che chi ha partecipato abbia contribuito all'organizzazione con un piccolissimo contributo in denaro, perché soprattutto se siamo contrari al finanziamento pubblico poi non possiamo pensare di essere contrari anche alla raccolta di piccoli finanziamenti privati. A proposito, mi risulta che la politica non deve costare niente. Mi risulta che non si pagano, al ballottaggio non si pagano i 2 euro. Al ballottaggio non era stato previsto, perché non c'è di nuovo la registrazione insomma lasciare se i proprietà vuole, magari, il certificato con cui si è votato al primo turno, quindi non c'è un momento di raccolta di dati e anche di fondi. Comunque la questione del finanziamento pubblico è seria, il finanziamento pubblico serve a evitare che la politica sia ostaggio di chi la finanzia, cioè in genere di persone molto ricche e con grandi interessi economici che possono condizionarla. Reggi, sulle regole del secondo turno, allora abbiamo detto che non si paga appunto, ma sul tema può votare chi ha votato al primo turno, però ci si può registrare se uno dimostra, credo, di aver avuto l'impossibilità di registrarsi precedentemente. Voi cosa vorreste e come secondo voi è stato fatto giusto e sbagliato sulla possibilità di votare al ballottaggio? Noi avevamo detto fin dall'inizio che come avviene sempre, no? Nei ballottaggi non è la prima volta che si fanno, quando si elegge un sindaco è normale che si faccia un ballottaggio e non c'è mai stato nessun vincolo alla partecipazione al secondo turno. È la prima volta che succede, penso, nel mondo che tra il primo e il secondo turno si impedisca ai elettori, se non portando un certificato medico, mi sembra di capire, di poter votare al secondo turno, che è francamente davvero difficile da comprendere, no? E quindi io penso che dovremmo anche pensare di rivederla questa regola, perché ma c'è ancora tempo? Io spero di sì, nel senso che il buon senso, c'è sempre tempo per applicare il buon senso. Cioè, buon lei senso spera che vengano cambiate le regole questa settimana per poter far votare chiunque? Guardi, anche io spero che il buon senso prevalga, perché cosa facciamo domenica? Se vengono a votare in tanti li mandiamo via? Cos'è che facciamo? Cioè, davvero, effettivamente è un problema. Immaginami la situazione. Sì, no? Un problema pratico è questo. Votare. È vero. Sono è vero. Di centrosinistra, no? Ve lo faccio vedere col sangue. Cosa fate? Mi mandate via. È interessante questo. Difficile. Chiara Geloni, se succede che uno si presenta e dice: ma io non ho votato l'altra volta, voglio votare questa volta. In teoria deve essere mandato via perché non si è registrato. Che succede? Ma io non so, io penso che non ci saranno queste masse di persone che non avendo votato questa volta vogliono votare la prossima volta. Io non mi occupo di regolamenti, diciamo, faccio la giornalista, non ho partecipato alle trattative sulle regole, però vorrei dire questo. Io non so se i sostenitori di Renzi vogliono passare questa settimana di nuovo a fare una polemica sulle regole. Hanno già fatto così per gran parte della campagna delle primarie e poi alla fine della campagna se ne sono anche un po' pentiti e hanno anche cercato di correggere il tiro in corsa, perché questa polemica sulle regole gli si ritorceva contro. Per fortuna le abbiamo cambiate un po', Chiara. Hanno detto che le regole avrebbero impedito la partecipazione, che avrebbe votato pochissima gente. Non è vero, non è successo. Hanno detto che i diciassettenni non hanno votato. Scusa, purtroppo. scusa sindaco, grazie. Hanno detto che la registrazione sarebbe che era una cosa inutile, quando gli dicevano che serviva per evitare lunghe file hanno fatto sorrisetti, poi si è visto che ieri Matteo Renzi, che non si era registrato, ha fatto una lunghissima fila. Sì. Quindi adesso certo le regole ci sono. Le regole sono queste. Reggi, sono state decise. Mi pare di capire che le regole sono queste. Reggi. Anche a me pare di capire così. Io dico, il buon senso c'è sempre lì, è sempre lì. Se lo vogliamo usare, c'è il buon senso. Se lo vogliamo lasciare da parte. Ho capito, però, Reggi, una volta che sono state fissate le regole. Comunque, non c'è problema. Noi poi le abbiamo accettate, le abbiamo cambiate. Fortunatamente, siamo riusciti con la nostra protesta, che era civile, non è stata, l'abbiamo cambiate, le abbiamo migliorate e poi le abbiamo accettate. Mi dica, Reggi, qual è secondo lei l'arma in questo momento, arma politica che ha in mano, anche se ieri circola questa foto di Renzi con l'arma vera e propria, perché ha fatto lo starter alla maratona di Firenze. Qual è l'arma nascosta che in questa settimana si giocherà a Renzi per cercare di sparigliare la partita? Intanto è più conveniente votare Matteo Renzi per questo motivo: se la centrosinistra vuole avere un leader che fa il premier, l'unica possibilità è Matteo Renzi, perché è l'unico che è in grado di allargare la platea degli elettori, oltre alla coalizione che appunto si consolida, lui è in grado, parlando a tutti i cittadini, come ha dimostrato di fare, di raccogliere ulteriori adesioni. No, ma avrà un qualche di andare oltre. Sì, ma avrà un qualche colpo, un qualche coniglio nel cilindro da tirare fuori, no? Questo ve lo diciamo un po' alla volta, non è che possiamo svelare tutte le nostre cartucce. Mercoledì c'è il dibattito, appunto, in TV, il dibattito. io faccio il mio lavoro, magari se ci anticipava qualcosa. Chiara Geloni, mercoledì potrebbe essere un giorno, il giorno del faccia a faccia, credo televisivo, sposterà voti, o a questo punto è tutto abbastanza deciso, cioè Bersani può stare tranquillo, può solo commettere, diciamo, degli errori, ma se no va tutto tranquillo? Insomma, tutto deciso non è, se no, ripeto, come ho detto prima, sarebbe inutile andare a votare. Credo che Bersani abbia delle carte su cui giocare, che gli elettori delle primarie hanno già dimostrato di apprezzare: la competenza, l'affidabilità, la capacità di unire, soprattutto la capacità di unire nel senso di fare la coalizione, di essere la persona che dà più affidabilità in vista della tenuta in futuro della coalizione di centrosinistra, della sua capacità aggregatrice e la capacità di essere sicuramente il premier che serve all'Italia. Credo che non gli serviranno conigli dal cilindro, gli servirà insistere con forza, confermare su queste sue caratteristiche. Come dice la moglie di Bersani, più che usato sicuro, usato esperto. Questa la moglie di Bersani, ha fatto questa battuta. Vi ringrazio e vi saluto, Roberto Reggi e Chiara Geloni. L'appuntamento è rinnovato per quel che riguarda 24 mattino a domattina alle 6:30. A domani.